Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove dubbio, che io porti la fede. Dove errore, che io porti la verità. Dove disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.